danza, danza, fanciulla, al mio cantar. Danza, danza, fanciulla, gentile, al mio cantar. Leggera, leggera, sottile, al suono dell'onde del mar. Senti il vago rumore dell'aura scherzosa che parla al cuore con l'anguido suon, con l'anguido suon. E che invita a danzar senza posa, senza posa, che invita a danzar. Danza, danza, fanciulla gentile, al mio cantare, al mio canta, danza, danza, al mio cantare. E che invita a danzare.